c'è qualcuno? Prova. No, Gianni, dove ho il rum, cambio. Ma ti cucca. Gianni, doppio. Ehi, amico, sto parlando, se ci pittacca, capisci? Ho disinstallato, me l'ha finita. Niente di merda, c'è qualcosa, basta. Offendere, boh, so offendere, basta. Te lo disegni, non c'è nessuno. No, non c'è nessuno. Ho provato a chiamare, hai risposto tu adesso, ma dopo 3 ore. Già, io l'ho... Prima in cucina stavo merendando, ho fatto 2 toast, una birra, poi sono stato in camera, alla 25, e lì ero lì col telefono, là, giocando col telefono. Ora Edo che ha fatto la merendina. E lui. Aspetta, con in giro ce ne sono per questi giorni. Allora c'è vabbè, aspetta, con in giro proprio no, comunque qua la Tedolce, poi c'è la locomotiva, c'è un circolo che fanno karaoke, fanno dei tortiglioni al sugo e le melanzane alla parmigiana, 4 euro. Poi domani alle 22 a Ottava c'è Gianluca Impastato, quello di Colorado. Io stavo spegnendo che mi stavano chiamando, cazzo, si cipitacchi. Ti stavo dicendo, cosa mi stavi dicendo? Cioè, c'è questo circo che fa la locomotiva, sì, ho capito, vabbè, dimmi, e cosa c'è? Fanno il tortiglione al sugo e la melanzana nella parmigiana. Invece a domani alle 22 a Ottava c'è Gianluca Impastato, quello di Colorado. Ah, sì, ho capito, il comico. Alle 22. A San Giovanni. Ottava. E dove lo fanno Ottava? Ah, sì, ho capito, dove c'erano, dove hanno fatto il complesso, come si chiama? I nomadi. Ho capito già, scusa? Dove hanno suonato i nomadi, deve essere, con lo spiazzo grande. Kappa. Proprio lì sicuramente, dove c'è la chiesa, là, lì. Dove andare prima di arrivare a casa di Luigi, là, lì. Adesso domani vediamo, ci sentiamo prima noi, sennò fa parcheggio, però. Un casino è a trovare il parcheggio. Io l'ho votato di Roma, ragazzi, ho trovato il parcheggio, poi si è sentita male la 50 e per adesso ho dovuto andare in urgenza. Qua. 3 volte che il parcheggio, dopo che andavo la ciappa dove ci ho dovuto andare. Allora noi siamo andati 2 o 3 volte con Marina a Piazzetta, che ci doveva essere lui. Invece c'erano altri, quelli di Colorado. Vabbè, comunque ce la facciamo ridere lo stesso. Ma è passato e impastato. Io avevo visto a Pintus, a un altro a cosa di Colorado, lo stesso a Pozzo San Nicola. Come sei a casa, questo era già. Mi sto riposando, poi non posso uscire prima delle 7, io ce lo sai. Ah, c'è sempre malattia. E allora? Come faccio? Sì, quando mi operano, e poi vi hanno direttamente in pensione, penso. Speriamo, la morte la godi, no? Quanti anni hai i contributi, quanti anni? 36 mi sa, no? 38. Certo, quindi... 38, poi sto continuando, mi stanno sempre pagando normalmente a me. Sono sempre in malattia, anche se sono passati i giorni di malattia mi stanno continuando a pagare, la mia vita è seria, non è una vita di cavolo. E mi ha detto che senza soldi non mi vuole lasciare. Cioè, non ho capito. Cioè, passati i 60 giorni di malattia c'è licenziamento in tromba, praticamente. E invece a me non mi hanno licenziato, sono ancora in forza, lavoro e stanno aspettando se riesco a rientrare oppure no, capito. Spero che ti diano la pensione, ma con te la godi e se la biglia e luci. Faccia entrare un altro giovane, così si fa le ossa. Sì, e ossa che ti vai, chi? L'ossa te le consumi, non te le fai, come ce l'ho io consumato, che? sto aspettando che mi chiamino per operarmi. Ancora non ti ho mandato il messaggio al dottore, mi ha scritto che deve parlare col primario, che a giorni ne parlava col primario. Sta un attimo Gianni, se quelli sono al telefono, arrivo via. Oh Gianni. Ehi ya. Mi hanno chiamato, siccome ho sistemato un telefono, dai, questo ragazzo gli ha preso acqua, sono riuscito a sistemarglielo. Adesso vado a farmi una doccia veloce, mi cambio che te lo devo consegnare, capito? Se mi aspetti, dai. Ok, dai, ti è andata bene, dai. Anzi, è andata bene a lui che non ci ha usato il telefono. Un telefono da 250 euro. Ti ho già detto ieri che lo stavi mettendo a posto. Speriamo che poi non si arrugginiscano i pezzi dentro, perché a volte fa così, si uscita, dopo un po' si uscita. Vabbè, speriamo di no, dai. No, sono stati puliti già, tranquillo, non si uscita niente. Dai, un po' di lavoro sciacquato e poi già, ecco per salutarti, se ci sei, sono pazienza. Già sono qua. Ho detto lupo grigio, non so se si è ascoltato più un cambio. A Santiago di 4 e una di 3, dai. Ti saluto cordialmente, dai, sono qua al telefono, scusami.